in primo piano. Giovedì 23 settembre, i mercati in fuga dal dollaro. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Oro record, l'euro vola a 1,34. E poi c'è molta politica, soprattutto, come abbiamo sentito nel GR, la rottura tra Berlusconi e Fini per via dei documenti apparsi ieri su Giornale e Libero. Giustizia, rottura Berlusconi-Fini per il Corriere. Per Repubblica, dossier anti-Fini, rottura col PDL. Così La Stampa, giustizia, i finiani rompono la tregua. E così via. Giornale Libero, che oggi andremo a vedere, perché anche, soprattutto Libero, è una prima pagina, con una foto che vi racconterò davvero imperdibile. Ma io vorrei partire proprio dal tema del nostro sondaggio, perché è un tema che ispira Pierluigi Battista in prima pagina sul Corriere della Sera: la pena di morte mai, ma l'America non è l'Iran. Ed è proprio questo il tema che noi tratteremo, la provocazione, se vogliamo, di Ahmadinejad, che dice all'ONU: vi siete mobilitati nell'Occidente per Sakineh, la cui condanna a morte peraltro è sospesa, e invece qui negli Stati Uniti, in Virginia, viene uccisa oggi, viene giustiziata una malata di mente, Teresa Lewis, questa notte in Virginia, e non fate niente, non ci sono mobilitazioni. Pierluigi Battista: nessuna luce è stata ancora accesa per impedire l'esecuzione di Teresa Lewis in Virginia. Ma la battaglia contro la pena di morte è troppo importante per lasciarsi intrappolare dalle furbizie dell'autocrate iraniano. È giusto farsi sentire adesso, fino a che una sola speranza può impedire l'iniezione letale. È davvero paradossale, scrive Battista, che il caso Lewis, la donna minata da forti disturbi mentali e condannata per aver indotto l'amante a uccidere il figlio e il figliastro, si sia imposto sulla scena internazionale sulla scia delle parole di Ahmadinejad. E la colpa del movimento per l'abolizione della pena capitale è quella di suscitare un'attenzione solo episodica sulle vicende dei condannati a morte in America. Ma poi più avanti Battista scrive: però appare ridicolmente pretestuoso l'accostamento che Ahmadinejad suggerisce tra il sistema iraniano e quello americano. La pena di morte rappresenta un orrore, sempre, ma le atroci discussioni a Teheran sulla realizzazione tecnica della lapidazione sono una specialità vergognosa che rendono il caso iraniano imparagonabilmente più feroce di quello americano. È proprio questo, insomma, la provocazione, se volete, mia è questa: esiste una pena di morte più democratica? Esiste un modo di applicare la pena di morte più feroce rispetto che a un altro? Oppure, come penso io per esempio, la pena di morte non va mai applicata in nessun caso, neppure nei casi di criminali conclamati e feroci. Teresa e il tempo di morire, gli Stati Uniti non si fermano, è una pagina anche intera sul Fatto Quotidiano, due pagine invece sull'Unità, Virginia, a morte una disabile, i giudici non fermano il boia, per la prima volta dopo 98 anni una donna verrà giustiziata in Virginia. C'è un'intervista anche a Carol Bebe Tarantelli sull'Unità: Ahmadinejad fa propaganda, ma la forca va bandita. La politica, dunque, la politica la fa da padrone, soprattutto la tensione, la rottura, qualcuno dice ormai definitiva, tra Fini e Berlusconi, dopo che ieri Giornale Libero hanno pubblicato il documento di cui rendevamo conto ieri e che fa molto discutere, vale a dire una lettera proveniente dal governo di Santa Lucia, una lettera interna in cui il ministro della giustizia di Santa Lucia, Rudolph Francis, comunica al capo del governo dell'isola caraibica che il beneficiario reale delle società intestatarie del famoso appartamento di Monte Carlo sarebbe proprio Giancarlo Tugliani, vale a dire il cognato di Fini. Ora, Fini è furioso, parla di patacca, per usare un eufemismo, parla di intervento dei servizi segreti, parla di documenti palesemente falsi. E su questi, sulle manine, le manone, i servizi segreti, i presunti complotti, è su questo che si consuma l'ultimo scontro tra Finiani e Berlusconiani. Di una cosa ormai è convinto Gianfranco Fini, scrive Liana Milella in prima pagina su Repubblica. È ormai senza alcuna ombra di dubbio. il mandante di quello che il giornale pubblica è solo e unicamente Berlusconi. Questo è il virgolettato attribuito a Fini. È inutile che dica o faccia finta di non esserlo. So che è così. Quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti è la prova che dobbiamo fermare tutto. Lui punta scientificamente a distruggermi, lo pianifica, ma io a questo punto blocco ogni trattativa sul fronte della giustizia. E Liana Milella dice che invece ieri Berlusconi continuava a dire lo fottiamo un'altra volta, riferito a Fini, e il Corriere invece fa notare come ieri a Palazzo Grazioli sia stato ricevuto Antonio Angelucci. Chi è Antonio Angelucci? Senatore del Popolo della Libertà, ma è anche l'editore di Libero e anche del Riformista, ma soprattutto in questo caso di Libero, vale a dire uno dei due giornali che sta portando avanti la campagna sulla casa a Monte Carlo. E scrive Marco Galluzzo sul Corriere: hanno parlato probabilmente anche di questa campagna stampa, e addirittura non è possibile dirlo, ma si sussurra con insistenza che in arrivo sono altri documenti anche in formato video. Giancarlo Tugliani cosa fa? Tramite i suoi avvocati si difende: quella casa non è mia, quegli atti sono falsi, quella lettera è chiaramente artefatta. Dall'altra parte, giornale Libero dicono: chissà perché da Santa Lucia nessuno ha smentito nulla, un'intera giornata senza che da parte del governo di Santa Lucia su questa presunta lettera del ministro della giustizia Francis nessuno abbia preso le distanze. E certo, si consuma dietro questo. Per esempio, vedete un po' Flavia Perina, che è finiana doc, è direttore del Secolo d'Italia, cioè l'organo di stampa vicino a Fini. Si pone queste domande. È vero, come ha scritto Libero, che c'è un rapporto personale tra l'ex primo ministro di Santa Lucia e Berlusconi? È vero, come ha scritto il giornale, che sono stati inviati a Santa Lucia agenti dei servizi e della Guardia di Finanza? È vero che la lettera di Rudolf Francis, cioè il ministro della giustizia, è stata fatta filtrare alla stampa estera attraverso un sito di Santo Domingo, località di residenza, guarda caso, di Luciano Gaucci? Aggiungo io, ex compagno dell'attuale moglie di Fini. Ed è solo una coincidenza che Gaucci sia la mina vagante della stagione dei talk show? E dice niente a nessuno il fatto che l'attuale editore del Nacional, cioè il giornale che ha pubblicato questa lettera, sia anche proprietario di diverse reti televisive come Telecanale e Supercanal? Insomma, ce n'è davvero per creare un nuovo complotto internazionale su questa lettera vera, presunta falsa che sia. Luciano Gaucci si difende: io non c'entro nulla, sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera con Fabrizio Roncone, che va anche a intervistare un uomo chiave. Da tempo è il senatore Pontone, 83 anni, tesoriere che si è dimesso dal partito, uno che dovrebbe sapere molto della casa di Monte Carlo, è stato anche sentito dalla procura. Buongiorno senatore Pontone, buongiorno, cosa vuole? Ha letto i giornali? Sì, li ho letti. È da Santo Domingo, io non posso parlare, abbia pazienza. Proprio adesso. E perché? Ho due ufficiali della Guardia di Finanza di fronte. Ma mi spiace, ma se posso, qual è la ragione della loro presenza in ufficio? Devono prendere dei documenti. Senatore, è una brutta storia. Ma che c'entro io? Senatore, guarda, è inevitabile pensare che lei qualcosa sappia. Mi ascolti bene. Io, quel Tugliani, non lo conosco. Sicuro? È sordo? Non lo conosco. Punto. Fine. Conosce la società Timar Ltd? No, mai sentita. La società Printemps Ltd? Mai sentita. Senatore, mi scusi, con rispetto dovuto, lei comincia ad essere piuttosto... è piuttosto faticoso credere che lei non sappia, e invece dovete credermi, capito? Ma eppure, senatore... E a questo punto Pontone, come dire, no, non perda la pazienza, senatore. Però lei insiste, lo vuole capire o no, che io non so niente di cosa ha combinato questo Tugliani a Monte Carlo. Gianfranco Fini non mi ha mai raccontato queste cose. A proposito, qual è il suo stato d'animo con Gianfranco Fini? Senta, risponde Pontone, lo stato d'animo che ho nei confronti di Fini è una cosa mia, molto personale. Certo, non vengo a raccontarla a lei, che poi magari me la mette pure sul giornale. Insomma, Fabrizio Roncone fa questa spettacolare intervista, battuta e botta e risposta con il senatore Pontone, Francesco Pontone, 83 anni, napoletano, vive a Napoli, è avvocato da sempre dirigente rigido, così lo definisce Roncone, uno che arrivò a Monte Carlo in autobus e si lamentò per aver dovuto, causa un improvviso temporale, acquistare un costoso ombrello griffato, dicendo: i soldi del partito sono sacri. È una chiosa davvero emblematica anche questa dell'intervista di Fabrizio Roncone. Sta di fatto che ci si arrovella su questi dossier, presunti dossier, anche il Fatto Quotidiano, Pirati ai Caraibi, Marco Lillo, Da Saint Lucia al Documento, La Casa di Monte Carlo e di Tugliani, ma Perfini e il cognato è una patacca. Questa è la parola del giorno, patacca. Ma oggi il Giornale Libero insistono. Il Giornale pubblica un'intervista, a parte che dicono non c'è alcuna smentita da Saint Lucia e quindi a noi va bene così. Come dire, quel documento non è stato smentito. Oggi il Giornale intervista l'agente immobiliare Filippo Apolloni Ghetti. Fini sapeva la casa vale 1,3 milioni. Altro che prezzo giusto, prezzo congruo, come l'ha definito Fini, è un prezzo ridicolo. E lei come fa a saperlo? Guardi, io conosco Fini da 40 anni, tra noi c'è sempre stato un rapporto personale. Dunque, all'epoca Fini mi consultò, mi chiamò in via della Scrofa e mi disse: guardi, c'è questa casa a Monte Carlo che ci ha lasciato una contessa, la contessa Colleoni. Non la voglio disturbare, ma guardi un po' la mappa, mi spiegò. Mi fece vedere la mappa e io feci una valutazione e dissi: secondo me vale 1,2-1,3 milioni di euro. E Fini commentò: beh, se ne uscì con un sonoro però. E quindi, secondo l'agente immobiliare Filippo Apolloni Ghetti, Fini sapeva la casa vale 1,3 milioni. Ma oggi, come anticipato, è imprescindibile la prima pagina di Libero da questo punto di vista. Perché su Libero oggi vedrete una foto di Gianfranco Fini in prima pagina, quasi, ripeto, quasi totalmente nudo. Il presidente è nudo. Questo è il titolo di prima pagina di Libero. Maurizio Belpietro spiega così. Quest'estate si è fatto vivo con me un paparazzo che ha sorpreso Fini in atteggiamento imbarazzante. Niente di grave, solo una serie di istantanee senza mutande, che sarebbero manna per alcuni settimanali di gossip. Il fotoreporter, vista l'inchiesta condotta da Libero, ha pensato che fossimo interessati, si è rivolto a me. Confesso che al principio mi sono fregato le mani, sono stato tentato di pubblicare il servizio, decine di scatti in mezzo al mare, dopo una discesa negli abissi con la tuta da sub, che hanno comunque una loro comicità involontaria, che avrei voluto condividere coi lettori. Poi ho immaginato i commenti di Fini, avrebbe parlato di volgarità, dichiarandosi perseguitato a mezzo stampa, così come ha fatto in queste settimane quando ha usato la famiglia che lui stesso ha messo in mezzo per evitare di rispondere sul caso dell'appartamento di Monte Carlo. Dunque preferisco regalare i ritratti in versione integrale, evitando al presidente della Camera l'imbarazzo di vedersi pubblicato senza veli. Mi limito, eccolo qui, a riprodurre una sola istantanea in prima pagina per dimostrare a chi mi legge che non mi sono inventato niente. E allora, c'è la foto in prima pagina di Gianfranco Fini. Perché dico quasi completamente nudo? È un Fini in realtà tutto nudo, ma proprio lì, lì dove si dovrebbe vedere quello che non si deve vedere, c'è una foglia di fico appiccicata. Il presidente è nudo oggi su Libero con questo sottotitolo: per dimostrargli che non lo perseguitiamo, non pubblichiamo le sue foto senza veli. Ragazzi, il clima politico è questo, pistole fumanti e manine tropicali anche in prima pagina del Riformista, tanto che oggi, scusate, è spettacolare ancora, Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, pagina 3, prende spunto da questo per parlare e inchiodare come sempre il PD. Bersani a Veltroni: ma tu non ce l'hai un cognato? Questo Riccardo Barenghi sulla Stampa a proposito di Veltroni, a proposito del PD. Oggi pare una resa dei conti con la conta, per l'appunto, il PD, il giorno della resa dei conti, Bersani, Veltroni. Insomma, tutto questo fa passare un po' in secondo piano il fatto che ieri si sia votato su Cosentino la richiesta delle intercettazioni, respinta la richiesta. I franchi tiratori, 15 secondo il Corriere della Sera, franchi tiratori che sono nel segreto del voto hanno votato contro la richiesta, contrariamente a quanto avevano detto evidentemente. Jacoboni sulla stampa: riecco i franchi tiratori, lo scrutinio segreto per salvare la casta. Una volta Andreotti disse che i franchi tiratori sono la mala pianta di cui ci si rallegra quando si manifesta in ausilio alle proprie tesi e si demonizza quando ti fotte. Roba da prima repubblica, ma il franco tiratore o l'astensionista o tutti quelli che nel segreto dell'urna furoreggia anche e soprattutto nella seconda repubblica. Insomma, gli onorevoli si danno una mano l'un l'altro nascostamente, si tutelano segretamente, si salvano sempre e comunque a prescindere. E a proposito del voto di Cosentino, che ha salvato Cosentino, nel senso negata l'autorizzazione alla magistratura di prendere le intercettazioni dell'inchiesta in cui è accusato di associazione camorristica, associazione esterna alla camorra. Due, le vignette Staino a pagina 3 di Repubblica: Berlusconi che urla dentro un water, Cosentino è salvo, Italia avanti tutta. Mentre Vauro sul Manifesto in prima pagina: Cosentino, la Camera vota no all'uso delle intercettazioni, c'è Cosentino col telefonino, telefono subito per dare la bella notizia ai capi clan. I mercati in fuga dal dollaro, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, ma sono ancora giorni in cui ci sono paginate sulla vicenda Unicredit, dopo che Alessandro Profumo è stato dimissionato dal numero uno, dal consiglio di amministrazione della più grande banca italiana. Unicredit stringe sul nuovo CEO. Questo è Alessandro Graziani a pagina 3 del Sole 24 Ore, ma a pagina 2 il Sole 24 Ore mette i molti protagonisti dietro la svolta di Piazza Cordusio, i ruoli di Giulio Tremonti, del board, del presidente di Trampel, di Paolo Biasi, che è il diciamo numero uno di Cariverona, dei libici, di Mario Draghi. A proposito di Dieter Rampel fa un'intervista intera a pagina al Corriere della Sera, pagina 13, è Paola Pica che lo intervista. Dieter Rampel: troppe voci attorno a Unicredit, alla banca serviva un nuovo leader. Non è una cacciata di Profumo, la decisione non è contro una persona ma una scelta per la banca, è chiaro che la normalità sarebbe stata avere un ricambio contestuale, ma... Ora, dice, rimarremo senza amministratore delegato il meno possibile, questione di settimane al massimo. Nel corso del tempo, dice Rampel, si sono accumulate distanze con Profumo. Ma su cosa? Beh, sono legata a un impegno di riservatezza, non intendo violarlo. Eppure lei ai dipendenti ha parlato di visioni diverse sulla governance. Questo è innegabile, dice Rampel. Quindi visioni diverse tra lei e Profumo? No, non è una questione personale, è stato il Consiglio a prendere una decisione. E poi Umberto Bossi dice: l'allarme che la banca possa diventare tedesca forse è poco noto, risponde Rampel, ma io sono austriaco intanto. Posso dire che se fossi un investitore con tanti soldi li impiegherei sicuramente in una banca così radicata in Italia e in Europa. E poi non c'è solo Bossi, ma il sindaco di Verona, Tosi, mi permetta, Tosi, come altri amministratori locali, non sono azionisti della banca. E poi sulla vicenda libica, non vorrà dirci che sulla Libia non è successo niente. Corretto, la Libia come investitore non è mai stata un problema, semmai le modalità di ingresso di nuovi soci hanno aperto riflessioni importanti. E poi sulla domanda anche chiave: ma lei sapeva della scalata dei libici, che sono ormai i primi azionisti? È stato nell'aprile 2009 che, incontrando Profumo e me, il governatore della Banca Centrale della Libia ha manifestato interesse generale nell'Unicredit. Io espressi qualche contrarietà all'eventuale superamento della soglia del 5%, poi non ho più saputo nulla. Questo di Dieter Rampel, mentre su Repubblica parla, un'intera pagina, a Massimo Giannini. Geronzi viene identificato come l'uomo che ha fatto la congiura contro Profumo. Mi spiace deluderla, ma non sono il capo della Spectre. Inizia così la conversazione di Geronzi con Massimo Giannini con Repubblica. Non ho niente contro Alessandro Profumo, mi sono sempre adoperato per la stabilità del sistema finanziario, dice il presidente dei generali. Mi citi un episodio nel quale ci saremmo scontrati, al che Giannini dice: guardi che ce ne sono molti. la fuoriuscita dal capitale RCS, i Tremonti Bond, la governance di Mediobanca, il passaggio dello stesso Geronzi da Piazzetta Cuccia alle Generali. Ma lui nega tutto. Guardi, è una leggenda che Profumo fosse contrario al mio passaggio alle Generali. In realtà lui giustamente si preoccupava del fatto che ci fosse una continuità aziendale in Mediobanca. Poi Geronzi è anche molto critico nei confronti della Lega, no? Bossi che dice attenzione ai tedeschi. Allora, dopo aver agitato lo spauracchio di Gheddafi, ora lancia l'allarme sulla calata negli unni della Germania? Non diciamo sciocchezze, dice Geronzi. Qui c'è chi apre bocca e dà fuoco ai denti. Far serpeggiare il rischio della scalata dei tedeschi col solito slogan del no pasaran, dopo aver gridato al pericolo dei libici, è un modo stravagante e propagandistico di leggere gli eventi. Interessante questa intervista che vi segnalo davvero a Geronzi su Repubblica. Oh, siamo alla veloce conclusione. Troverete paginate ancora sulla triste fine di Moreno, Byron Moreno, l'arbitro che ci cacciò insieme a un'indegna partita dei nostri azzurri, ricordiamolo sempre, dai mondiali del 2002 di Corea e Giappone. La triste fine di Moreno, beccato con 6 kg di eroina nelle mutande, le mutande strafatte, sono già state soprannominate così, all'aeroporto di New York. La triste fine di Moreno rischia 10 anni di carcere, pagina 65 del Corriere della Sera, nello sport. Cito questo perché lo sport, il calcio giocato, io che sono milanista per il momento faccio finta di non vederlo. Byron Moreno, il tempo è galantuomo, addirittura Di Livio, uno dei protagonisti di quella partita, fa questa intervista a Malcolm Pagani e Silvia Truzzi sul Fatto Quotidiano, beccato, e quasi Di Livio ora si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Dubbi ce n'erano anche allora, ora diventano certezze. Su cosa? Su come Byron Moreno intenda e conduca la sua vita, spacciando droga pesante in giro per il mondo. Sembra una commediaccia. Già lo avevamo visto in qualche orrenda comparsata nella TV italiana in cui gli tiravano uova marce, sembrava un clown triste alla ricerca di un ingaggio. Sentite come parla l'ex calciatore Di Livio, insomma deve essere ancora molto ferito per quella partita. Adesso gli hanno sventolato a lui il cartellino rosso. Cosa ricordo di quella partita? Ci sono immagini illuminanti, noi lo insultavamo e lui si girava dall'altra parte. La cosa che dava più fastidio, questa faccia da pesce lesso, un provocatore, uno scemo. Ma insomma, Di Livio irrefrenabile, come dire, quasi contento della disgrazia di Byron Moreno, beccato con la cocaina, 6 chili nelle mutande. Ci fermiamo qui, il sondaggio nostro di oggi è questo, pena di morte. Ahmadinejad dice, ce l'avete anche negli Stati Uniti, ma nessuno si mobilita. È un paragone, è un'accusa giusta? Radio24.it, il GR.